2024 2024 di Enrico Pagliarini. Inizia una nuova puntata di 2024, questa è la puntata del 25 maggio 2013. Carmelo Lauricella si occupa oggi della parte tecnica, Giorgio De Luca ci aiuta in regia. Benvenuti o bentornati, questo è 2024, il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Ogni settimana cerchiamo di capire insieme come la tecnologia ci sta cambiando la vita. E ce la sta cambiando moltissimo, sia nella vita di tutti i giorni, sia nel lavoro e molto lentamente anche nella nostra vita pubblica intesa come interazione con la pubblica amministrazione. Questa settimana c'è una novità importante perché, diciamo, si è completato un iter burocratico per aprire alla fatturazione elettronica anche la pubblica amministrazione, un tassello importante, fondamentale, e quindi anche la pubblica amministrazione, soprattutto le aziende che interagiscono con la pubblica amministrazione, possono usare solo la via digitale per la fatturazione, cosa molto importante. Dunque, molti dei nostri ascoltatori avranno sentito parlare nelle ultime settimane dello scorporo della rete di Telecom Italia. Però l'azienda ne ha discusso nel consiglio d'amministrazione di giovedì e ne riparlerà il 30 maggio. Stiamo parlando di un progetto che, se verrà lanciato, durerà sicuramente parecchi mesi, cioè chi dice un anno e mezzo, addirittura due anni. È una cosa piuttosto lunga e complicata. Si tratta appunto di un'operazione complessa anche dal punto di vista regolamentare, perché l'autorità per le comunicazioni dovrà essere coinvolta. E poi si tratterà, adesso non so quale verbo utilizzare, di un caso unico al mondo, perché a parte il caso della Nuova Zelanda, che sia per distanza ma anche per tutta una serie di altri dettagli un po' diversa rispetto all'Italia, non esiste un precedente di un paese dove l'unica rete di accesso ad internet viene fatta confluire in una nuova società separata dall'azienda che poi eroga il servizio. È quindi un argomento molto molto importante. Esistono in molti paesi, ad esempio, delle alternative. In molti paesi esiste la rete via cavo, dove veniva distribuita la TV via cavo, che di fatto costituisce un asset in concorrenza con la rete telefonica tradizionale. Allora, che cosa significa tutto ciò? Perché viene fatto? Quali conseguenze potrebbe avere sui consumatori e sul sistema paese, visto che stiamo parlando di un settore strategico per l'economia, per la vita sociale, per la diffusione delle idee, per il funzionamento della pubblica amministrazione? Questa lista potrebbe durare molto di più. Stiamo parlando di un aspetto fondamentale per la nostra vita e purtroppo questo non è condiviso, almeno dal punto di vista del dibattito pubblico, questo non è ampiamente condiviso, se ne parla troppo poco. Allora, oggi vogliamo mettere sul tavolo, darvi alcuni ingredienti per magari avere maggior consapevolezza quando leggerete notizie che riguardano appunto lo scorporo della rete di Telecom Italia. Ne parliamo con il professor Francesco Sacco, che è Managing Director, cioè dirige il centro ricerche Enter all'Università Bocconi di Milano. Professore, benvenuto a 2024. Buongiorno. Tu da parecchio tempo ti occupi di innovazione in generale, ma anche di infrastrutture, di telecomunicazioni, di banda larga. Hai analizzato, fatto molti progetti e voi al centro ricerche Enter della Bocconi di Milano avete analizzato una possibile separazione, comunque il tema della separazione della rete già da parecchio tempo, se non sbaglio. Il primo studio ormai iniziò nel 2005, lo presentammo nel 2006, direi che è un po' datato. Che cosa significa separare la rete, scorporare, perché si parla di scorporo, di separazione, di spin-off della rete di Telecom Italia? Ma banalmente vuol dire creare una nuova società che prende tutte le apparecchiature, tutti i cavi, tutto quello che è riconducibile alla rete di telecomunicazione, il filo per intenderci, lo mette in una nuova società che è separata dal resto della società Telecom Italia intesa come gruppo. Stando in una nuova società avrà degli amministratori diversi, avrà un conto economico diverso e quindi avrà anche degli incentivi diversi a essere competitiva sul mercato, a guadagnarsi quote di mercato, fare nuovi servizi, nuovi ricavi e servire soprattutto in modo uguale tutti quelli che sono i suoi clienti, di cui Telecom Italia, il gruppo, la casa madre, sarà uno dei tanti clienti. Sì, naturalmente noi oggi semplifichiamo al minimo quello che andrebbe detto su questo tema, perché qui ci sono cioè un tema regolamentare. Le telecomunicazioni sono un complesso sistema di regole, c'è un tema finanziario, perché naturalmente questa operazione viene fatta anche all'interno di un'azienda che ha un forte debito, e magari a questo possiamo anche accennare. Poi ci sono mille considerazioni di mercato, però è importante, diciamo, avere alcuni elementi per poter anche leggere e seguire questo dibattito, che speriamo, insomma, venga amplificato nelle prossime settimane un po' da tutti i media. Per quale motivo si sta discutendo e si vuole fare questo tipo di separazione della rete? Ma la prima ragione è che Telecom Italia è in una situazione adesso di indebitamento pesante, si trova in una situazione in cui i ricavi continuano a decrescere, solo nell'anno scorso sono decresciuti quelli sull'Italia del 6%, e avendo un debito che non decresce con la stessa velocità, si trova in una situazione che non è sostenibile, tant'è vero che il suo rating è stato da poco aggiornato ed è molto vicino a essere junk bond, cioè quindi essere un titolo spazzatura. Se sì. La società dovesse arrivare a un livello di titolo spazzatura, diventa molto difficile da gestire, certo, così grande con così tanto debito. Nelle ipotesi, cioè una delle ipotesi è che questa società, questa nuova società, poi abbia nuovi soci, poi magari su quali saranno i nuovi soci, si discute della Cassa Depositi e Prestiti e altri soggetti, ne discuteremo anche nelle prossime settimane. Quindi questo è un primo tema. C'è anche il secondo tema, è che comunque il settore delle telecomunicazioni è un settore molto competitivo. Se noi lo guardiamo da lontano, è uno dei pochi settori che fornisce servizi, soprattutto con regolamentato, che ha diminuito i prezzi. Ci sono settori come quelli dell'acqua che hanno aumentato i prezzi del 45% dal 2005 a oggi. Il settore delle telecomunicazioni è l'unico tra quelli con tariffe controllate che le ha che è decresciuto del 7% se noi guardiamo al passato. Questo naturalmente, se non si espande la domanda di telecomunicazioni, il nostro non è un paese che, come dire, è molto sensibile ai temi dell'innovazione nelle telecomunicazioni oppure all'innovazione di internet. Abbiamo avuto molta attenzione per quanto riguarda il mobile, ma il resto del settore, per quanto riguarda soprattutto il fisso, sì, e lì invece sono calati i prezzi, ma non c'è stata un'espansione che abbia compensato quello da parte della domanda. Quindi tu pensi che una società che molto probabilmente avrà, io sono tra quelli che pensano che non dovrebbe essere così, ma probabilmente avrà il 51% ancora nelle mani di Telecom Italia, sarà una società che sarà più competitiva e quindi aumenterà la concorrenza? Perché alcuni dicono, ma com'è possibile aumentare la concorrenza quando comunque Telecom manterrà il 51%. Il tema è come verranno fatte le regole. Dal punto di vista pubblico servono due cose: più che solo concorrenza, bisogna spingere l'azienda, la nuova società, a fare nuovi investimenti. Quello c'è bisogno nel paese, di fare investimenti, di far partire nuovi servizi e poi fare innovazione. Certo, per investimenti intendi posare fibra in giro per il paese? Assolutamente. Oggi cominciare a investire in una rete di nuova generazione potrebbe essere un progetto paese a cui agganciare altri progetti paese in una fase in cui l'economia è molto stagnante, e creare non un futuro ma una prospettiva di futuro, non solo per il settore delle telecomunicazioni ma anche in settori che sono vicini o che in qualche modo possono essere toccati. Cioè, naturalmente in tutto ciò la politica dovrebbe avere un peso maggiore. Fino adesso mi sembra che, vabbè, è anche vero che il governo è appena nato, quasi appena nato, però noi auspichiamo, immagino che questo sia anche uno dei temi, che la politica dica qualche cosa in più. Il tema è fare politica economica. Quando un paese non cresce per tanto tempo come il nostro, il problema è di politica economica. Oggi c'è un'opportunità epocale nel settore delle telecomunicazioni, perché gli investimenti fatti nella rete nel passato sono stati molto più bassi di quelli che si sarebbe aspettato che altri paesi hanno fatto. Il nostro paese non solo ha innovato molto poco per quanto riguarda tutto ciò che sono i processi, il modo in cui viene utilizzata la tecnologia per far diventare efficienti, quindi competitive, le aziende. Ora, se noi vogliamo in un colpo riprenderci il disavanzo, diciamo il ritardo che abbiamo accumulato rispetto a altri concorrenti in altri paesi, e riportarci sulla frontiera, bisogna puntare su quelle che sono tecnologie e soluzioni di frontiera, come la fibra ottica. La fibra ottica non è una panacea, però è una tecnologia che porta una serie di conseguenze prima di sé, che può rilanciare interi settori dell'economia nazionale. Noi abbiamo un paese che è molto difficile da in qualche modo aggiornare, cioè di riportare sulla frontiera, perché è un paese con molta provincia, abbiamo 8100 comuni che sono molto sparsi nel territorio, poche grandi città rispetto a quelli che sono altri paesi. Per portare innovazione, quindi la possibilità di utilizzare la fibra ottica anche in questi piccoli centri, dove poi ci sono le imprese, perché le grandi imprese, quelle che in Italia esportano poi all'estero, non sono nelle grandi città, sì, sono in piccoli centri collegati. C'è bisogno di fare uno sforzo enorme in termini di investimenti. Tra l'altro, ripartire gli investimenti in questa fase sarebbe per molte ragioni foriero di grandi buone notizie, perché quando si parla di reti in fibra ottica, l'80% delle spese, degli investimenti che si fanno per realizzare queste nuove fibre e sono scavi, comunque sono lavori scavi tradizionali, diciamo così. Molto tradizionali. E poi tra l'altro questi Pale lavori dureranno per molti anni, cioè non è che si fa una rete in 3 anni, no, la si fa in 5-10 forse. Sì, più o meno quello è l'orizzonte a cui dobbiamo pensare, ma nel frattempo quello che noi possiamo fare sono cose che cambiano la struttura del paese. Telesanità, oppure una pubblica amministrazione che posso approcciare, con cui posso discutere da casa. Quindi diciamo che tutto ciò, poi vedremo appunto in quali tempi, in quale modalità, comunque è potenzialmente una buona notizia quella dello scorporo della rete Telecom. Sì, perché toglie il tappo a una serie di cambiamenti che non si sono fatti nel passato. Ora bisogna prendere la palla al balzo e poi tirarne le conseguenze. Questo è un tema molto politico, oppure questa cosa rimarrà un qualcosa rimasto che rimane confinato al settore delle telecomunicazioni ed è un'opportunità, certo, persa. Diciamo l'ultima cosa che penso che sia importante, perché sicuramente in tutto ciò avrà un ruolo la Cassa Depositi e Prestiti, e sicuramente stiamo parlando di una società che è quasi pubblica. È vero che i soldi che sono in pancia alla Cassa Depositi e Prestiti sono quelli del risparmio postale, però visto che sono garantiti dallo Stato, c'è naturalmente chi sostiene, ha buone ragioni per sostenerlo, che si tratti di denaro pubblico, perché è garantito dal pubblico. Stiamo però parlando di un investimento che darà frutti, perché investire nella rete porta ricavi, dico bene? Enormi. Esatto, quindi è comunque un buon investimento. È un buon investimento perché porta due vantaggi grossi. Uno per il paese, perché porta l'innovazione. Secondo, perché porta anche la stessa società a offrire nuovi servizi che hanno ricavi che sono maggiori, che hanno qualità del servizio maggiore e che poi possono portare a loro volta altri investimenti in innovazione, nuovi prodotti. Noi in Italia, nel settore della ottica, abbiamo una lunghissima tradizione. Non dimentichiamo che l'acquisizione di Tronchetti Provera a Telecom Italia, la famosa OPA, che poi, sì, insomma, ha generato diverse altre conseguenze, viene fuori dal fatto che Pirelli aveva in pancia dei brevetti che ha venduto proprio nel settore dell'ottica. Cisco, una delle più grandi multinazionali nel settore, forse la più grande, la parte di ricerca dell'ottica è in Italia, per cui è un progetto paese nella misura in cui poi può portare altre conseguenze come ricerca, nuove imprese che partono a offrire nuovi servizi, il pubblica amministrazione che parte a cercare di sfruttare questa nuova infrastruttura per dare in modo diverso, in modo più gestibile per le persone, nuovi servizi. Bene, io ringrazio il professor Francesco Sacco per essere stato con noi. Sicuramente, insomma, ci sarà necessità, ma abbiamo il tempo per fare altre puntate sul tema. Grazie, a presto. Grazie a voi. Naturalmente abbiamo semplificato molti dei dettagli che andrebbero raccontati su questo tema, ma l'approfondimento di oggi, il primo approfondimento di 2024 di oggi, ha anche uno scopo, quello di invitarvi ad approfondire il tema e attivare un dibattito che magari faremo anche nelle prossime settimane. Il 30 maggio Telecom Italia, il Consiglio di Amministrazione di Telecom Italia dovrà decidere, almeno dovrebbe decidere, su questo dossier, quindi se partire con questo progetto, poi vedere e dialogare anche con i possibili partner di questa nuova società. Bene, sono le 15:44 minuti, questo è 2024, vi ricordo il nostro numero verde se volete chiamarci in diretta, 800240024. Più tardi parleremo di tecnologia da indossare e anche di tutte le nuove i nuovi prodotti che, collegandosi allo smartphone, aiutano a misurare la nostra vita. C'è un vero e proprio boom di questi prodotti, ne parleremo più tardi nella seconda parte. Tra poco parliamo della radio digitale. 2024. Sapete, molti dei nostri ascoltatori sanno che Radio 24 e le altre emittenti che fanno parte del consorzio Club DAB Italia hanno acceso oramai da qualche mese la propria rete DAB Plus, la radio digitale, quindi Digital Audio Broadcast, in gran parte del nord Italia. Parliamo di regioni in gran parte coperte come il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, il Trentino Alto Adige e la zona urbana metropolitana di Roma. Nei prossimi mesi nuove reti verranno accese sulla dorsale autostradale fino a Roma. Ne abbiamo parlato in modo approfondito nella puntata del 20 aprile, però questo è sicuramente un argomento che ci sta a cuore, che ci interessa. Ad esempio, Carmelo Lauricella, che è il nostro tecnico di oggi, ha la macchina con la radio DAB, giusto? Questo è un argomento, dicevo, importante. Ricordiamo che il DAB è pensato principalmente per l'ascolto in mobilità. Una delle condizioni necessarie affinché questa tecnologia si affermi è che i ricevitori DAB siano disponibili naturalmente sulle automobili. Allora, l'auspicio è che siano disponibili di serie, ma per il momento è già una notizia che siano disponibili come optional, visto che fino a qualche tempo fa non lo erano nemmeno a questo livello. Allora, Federico Ferraro è il responsabile per gli accessori di Volkswagen Italia. La novità è che per quanto riguarda la marca Volkswagen sarà disponibile come equipaggiamento opzionale la possibilità di ordinare la ricezione DAB. Questo era già possibile per alcuni modelli in passato. Da questa settimana si è deciso, anche in funzione di quelli che sono l'accelerazione che ha avuto il DAB negli ultimi mesi, di inserire la possibilità di ordinare per il cliente proprio la ricezione DAB. Quanto costa questo optional? Indicativamente ci muoviamo, a seconda del modello Volkswagen, tra i 200 e i 300 euro. C'è però anche la possibilità di, diciamo, adeguare le vecchie auto? Sì, questo è un aspetto interessante sul quale eravamo presenti già da tempo. Quindi esiste una soluzione, chiamiamola così, in post montaggio, che permette di adeguare le radio analogiche già presenti su veicoli circolanti alla ricezione DAB. Anche qui parliamo di un intervento che può essere fatta presso la rete autorizzata Volkswagen in Italia, fatta di concessionario service partner, con un intervento che si aggira indicativamente anche qui tra i 200 e i 300 euro. Per quanto riguarda gli altri marchi, perché voi oltre appunto a Volkswagen avete anche Skoda, Seat, Audi, forse me ne sono dimenticato qualcuno, insomma questi però sono i principali, che possibilità ci sono? Abbiamo anche Volkswagen veicoli commerciali, che noi trattiamo come marca a sé, ma di fatto lo è. Per quanto riguarda marca Audi, l'equipaggiamento è disponibile anche in questo caso come equipaggiamento opzionale, in abbinata all'Audi Navigation Plus, quindi è un equipaggiamento che completa i veicoli Audi e quindi è disponibile già da tempo, questo lo è già oggi, quindi non è una novità di questa settimana, ma arriva da un po' più lontano. Per quanto riguarda Skoda e Seat e veicoli commerciali, il prodotto è disponibile come equipaggiamento opzionale, quindi è ordinabile anche sui veicoli delle altre marche del gruppo. Su tutti i modelli? Sui principali modelli, sì. Oh, naturalmente noi ci accontentiamo anche di queste poche buone notizie e tutte le altre marche di automobili presenti in Italia, nel momento in cui mettessero a disposizione su tutti i loro modelli le radio con ricevitore DAB, noi saremmo pronti ad annunciarlo. Naturalmente, come dicevo poco fa, la speranza è che, visto l'esiguo costo di un chip per trasformare la radio da analogica a digitale, questo chip costa veramente pochi dollari, pochi euro, l'auspicio è quello che nel giro di qualche tempo, da quello che ci hanno detto difficilmente lo sarà entro pochi mesi, comunque nel giro di poco tempo questi ricevitori diventino di serie su tutti i modelli. Ma sapete che il settore automobilistico è estremamente lento, fin troppo lento, e questa è anche una delle cause poi della crisi del settore automobilistico. Adesso abbiamo alcune delle notizie della settimana. Digital News. Iniziamo dalla Apple. È fissata per lunedì 10 giugno l'annuale conferenza per gli sviluppatori Apple e tra le novità dovrebbe essere presentato il nuovo iOS 7. Digital News. Microsoft ha presentato Xbox One, la nuova console che arriverà sul mercato prima di Natale. La nuova Xbox è una sorta di media center che, collegata ad un televisore, può sostituire la piattaforma di Smart TV proprietaria del TV, ad esempio tra le tante cose. Si controlla con la voce e con i gesti grazie al nuovo Kinect, che è così preciso, pensate, che può rilevare lo sforzo muscolare, le pulsazioni solamente dalle espressioni e dal colorito del volto. Digital News. Dopo Facebook, anche Google sarebbe interessata all'acquisto di Waze, l'applicazione di navigazione che conta oramai nel mondo 45 milioni di utenti. In Italia direi che siamo arrivati a oltre 3 milioni. L'azienda israeliana potrebbe respingere le richieste di acquisto e comunque punterebbe ad ottenere ben più di $1 miliardo. Digital News. Google sta diventando sempre più forte in, alcuni dicono, troppi mercati, ed ecco che l'autorità americana antitrust ha avviato un'indagine per il momento informale su possibili irregolarità di Google nel display advertising, cioè i banner pubblicitari che compaiono sui siti internet. Secondo gli esperti, le possibilità che sia portato avanti un procedimento legale formale contro Google sono comunque poche, soprattutto dopo la recente decisione sempre dell'antitrust di non perseguire la società per abuso di posizione dominante nel search advertising, cioè che è il grande business di Google, ovvero la pubblicità contestuale che salta fuori nelle ricerche effettuate proprio sul motore di ricerca. Digital News. Parliamo di Yahoo, ci sono molte notizie che riguardano Yahoo questa settimana. Come vi abbiamo anticipato 7 giorni fa, l'azienda ha poi confermato domenica di aver acquistato il sito di blog Tumblr per 1,1 miliardi. Secondo quanto annunciato, il sito dovrebbe continuare a vivere di vita propria. Digital News. Ci sono altre notizie che riguardano Yahoo. C'è stata una riorganizzazione anche grafica molto bella di Flickr, il sito di fotografie che oggi conta 87 milioni di utenti e, pensate, 8 miliardi di fotografie. Da pochi giorni lo spazio gratis a disposizione degli utenti è stato aumentato a 1 terabyte. Digital News. Tu, Carmelo, ce l'hai l'account su Flickr? Non ce l'hai, e invece dovresti farlo, che così pubblichi le tue fotografie. Allora, per concludere, sempre le notizie riguardano Yahoo, ha annunciato di avere comprato la startup PlayerScale, una piattaforma che fornisce servizi per sviluppatori di videogame che, ridendo e scherzando, ha 150 milioni di utenti in tutto il mondo. Sempre per quanto riguarda Yahoo, l'azienda si aggiunge alla lista di società che hanno fatto un'offerta per acquistare Hulu, il sito internet che offre video a pagamento negli Stati Uniti. Digital News. E uno potrebbe dire, la notizia è che Yahoo abbia così tanti soldi da investire, infatti in questa settimana se ne è parlato molto. Abbiamo altre due notizie. La prima riguarda Sky, che ha annunciato la chiusura di Acetrax dal 21 giugno. Acetrax è un servizio di film on demand su internet presente anche su molte piattaforme di smart TV. Sky aveva acquistato Acetrax poco più di un anno fa. Digital News. Infine una notizia che riguarda il mercato della musica digitale in Italia, che cresce nel primo trimestre del 2013 in termini di offerta del 13%, coprendo ora il 35% del mercato discografico. Io pensavo e speravo anche di più, ma siamo al 35%. Allora, lo streaming, grazie anche a nuovi servizi che sono partiti recentemente, cresce del 28% e rappresenta, tra l'offerta digitale, il 26%. Allora, tra poco sarà con noi Max Ciociola, che è il fondatore di Music's Match. Music's Match è un servizio molto bello, molto divertente, perché ti permette, quando ascolti una canzone su uno smartphone, su un tablet, di vedere sincronizzato il testo di questa canzone, quindi è anche molto utile per canzoni in altre lingue. Uno può, leggendo, capire magari meglio il testo. Allora, Max Ciociola è l'unico in Italia ad aver ricevuto al momento i Google Glass, questi occhiali di cui si parla da un po' di tempo. Sono stati presentati circa un anno fa, ma fino ad oggi, ma ancora per molti mesi, saranno riservati a pochi e fortunati sviluppatori, perché, dicevo, Max Ciociola ha sviluppato assieme ai suoi collaboratori, alla sua azienda, questa applicazione che è stata portata anche sui Google Glass. Nella seconda parte di 2024, partendo da questa novità, parleremo di tecnologia che sta contornando gli smartphone, tecnologia da un lato da indossare, ma anche si stanno moltiplicando gli strumenti che servono per misurare la nostra vita, quanto corriamo, quante cose facciamo durante il giorno, oppure anche banalmente per misurare cose che prima venivano misurate con altri strumenti, oggi è possibile farlo attraverso nuove tecnologie collegate agli smartphone. Ne parleremo tra poco. Il nostro numero verde è 800240024. Ci risentiamo dopo le notizie di GR24. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. La seconda parte di 2024, il nostro numero verde per chiamarci in diretta 800240024. Io sono Enrico Pagliarini, saluto Max Ciociola che è il fondatore di Music Match. Benvenuto a 2024, Max, buongiorno. Ciao Enrico, buongiorno a tutti gli ascoltatori di 2024. Tu sei il, direi fortunato, però alcuni potrebbero anche dire sfortunato, possessore del primo paio di occhiali, poi ci spiegherai che non sono proprio dei veri e propri occhiali, dei Google Glass, che sono nelle tue mani, quelle dei tuoi collaboratori, da pochissimi giorni. Beh, dici subito, per quale motivo voi siete fortunati ad avere, ad essere gli unici in Italia ad avere questo tipo di gadget? Dunque, sì, ce l'abbiamo circa da una settimana, tutto, diciamo, siamo stati avvertiti da Google una settimana prima che cominciasse il Google I.O., che è la conferenza che si è tenuta da poco a San Francisco. Abbiamo ricevuto un'email da Google. Music Match è una delle applicazioni di più grande successo sullo store di Google, il Google Play. Abbiamo più di 10 milioni di download, per cui Google ha pensato bene questa prima tranche di 2000 Glass, quindi ce ne sono 2000 al mondo, di darli e di metterli sulla testa di 2000 sviluppatori, e tra questi ha scelto Music Match. La cosa interessante è che voi non li avete ricevuti in omaggio. No, confermo, i 2000 sviluppatori Google li vuole paganti, ovvero gli occhiali li abbiamo dovuti acquistare, ma lo sapevamo, $1,500, e oltre a ricevere ovviamente gli occhiali abbiamo diretto accesso a quelle che vengono chiamate le Mirror API, che è l'ambiente di sviluppo all'interno del quale Google ti consente di poter creare applicazioni. Benissimo, allora adesso vorremmo che tu ci descrivessi sia come sono fatti, sia l'esperienza che tu hai avuto, e poi ci racconti anche l'applicazione che avete già fatto. Avete già fatto un'applicazione, certo. Music Match per Google Glass. Prima l'esperienza, cosa succede, come sono fatti? Allora, sono un oggetto che pesa circa 100 grammi, in titanio e plastica, dal design devo dire di altissimo livello, che ha una barra laterale, tutto in plastica, e lo schermo, che è qualcosa di straordinario, è un piccolo prisma che in realtà tecnicamente proietta sulla tua retina l'immagine. Quindi tu hai un visore esterno che puoi spostare, che non dà assolutamente fastidio alla tua vista. Le batterie durano circa 3 ore, a meno di effettuare videoconference per 3 ore dove durano meno. Scalda, devo dire, pochissimo, non è noioso, non dà fastidio, diciamo, indossato. Io ti sto parlando in questo momento collegato al mio telefono e ho gli occhiali addosso, mentre sto parlando con te, con gli ascoltatori di 2024, in questo momento sto ricevendo delle mail e sto rispondendo. Ma che cosa ci fai in generale, che cosa ci puoi fare con i Google Glass? Allora, ci sono 5 funzioni di base che vengono richiamate dal cosiddetto comando OK Glass. Quindi gli occhiali si attivano con la voce oppure con il touch, perché la parete esterna è tutta touch. Una volta chiamato gli occhiali OK Glass, ti si attiva un menu con 5 funzioni. Take a picture, cioè fa immediatamente una foto a quello che vedono i tuoi occhi. Record a video, registra un video di 10 o più secondi. Puoi chiamare qualcuno dei tuoi contatti sul telefono, perché sono connessi comunque via Bluetooth al telefono. Oppure puoi effettuare un Hangout, che come sai è la nuova piattaforma di Google, diciamo la Skype di Google, che è l'esperienza più bella in assoluto, cioè posso videochiamare qualcuno e in più posso anche richiedere con il comando Get Direction delle direzioni, quindi usare Google Map. Queste sono le 5 funzioni di base, oltre ad una serie di app di default che si trovano già, come New York Times, che ti invia quando meno te lo aspetti una breaking news, così come c'è anche Twitter, Facebook e Google+. Io ho già letto in anteprima il pezzo che tu hai scritto per Nova 24, che sarà domani in edicola Sole 24 Ore, assieme a Sole 24 Ore, oppure nella versione digitale su iPad per gli abbonati, e hai raccontato, adesso sveliamo alcune cose ma non troppo, visto che un ascoltatore via Twitter ci ha chiesto: ma non vi sentite ridicoli? Allora, io non li ho provati, quindi non vi posso dare risposta. Tu hai, visto che la sede di Music Match è a Bologna, tu hai già passeggiato per le vie di Bologna e non ti sentivi ridicolo? Sì, io le ho utilizzate, perché poi, parliamoci chiaramente, è un paio di occhiali, quindi è giusto indossarle. Poi per me è stata un'opportunità di fare un focus group, diciamo, di toccare con mano quello che dice la gente. Non mi sono sentito affatto ridicolo, né tantomeno proiettato in Blade Runner o Minority Report. La gente ovviamente ti ferma, è l'unico aspetto della privacy, se vuoi, su cui possiamo parlare, è il fatto che vieni fotografato e finisci probabilmente sui social network. Detto questo, non mi sono sentito affatto ridicolo, mi sono sentito molto comodo, questo è il concetto, fisicamente parlando. Rimani con noi ancora per qualche minuto, Max. Saluto Gianfranco Giardina, il direttore del magazine digitale D-Day.it. Ciao Gianfranco, bentornato a 2024. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Allora, noi abbiamo deciso, facendo una lunga chiacchierata qualche settimana fa, di dedicare una puntata a tutto ciò che può essere indossato, perché tutto è nato dal tuo braccio. Tu hai un braccialetto, che cosa fai con questo braccialetto? Ah, questo qui è semplicemente un braccialetto, si chiama App, prodotto dalla Jawbone, che ti traccia i movimenti fondamentalmente che fai, e quindi i periodi di attività, di inattività, e anche il sonno, se riesce a essere un sonno profondo, un sonno leggero, sì. E tutto questo lo fa in maniera totalmente automatica, quindi non bisogna fare nessuna esercizio nulla particolare, in più, sì. Nulla in più di quello che si fa normalmente. E poi, ecco qui il collegamento, poi anche qui con lo smartphone, periodicamente si scaricano sullo smartphone tutti i dati, si possono fare delle analisi anche di trend di medio e lungo periodo. Una cosa non sicuramente non indispensabile. Mi sto divertendo. Però esatto, infatti mi sono stupito di questa cosa, visto che a me non piace avere addosso nulla, io non ho neanche l'orologio. Però parlando effettivamente ci siamo detti: c'è effettivamente qualcosa di nuovo che già sta accadendo da qualche tempo, perché gli smartphone non ci danno quasi più effetto wow, cioè non c'è quasi più nessuna novità. No, la spinta propulsiva in termini di innovazione che in questi ultimi tre anni sicuramente, è arrivata in maniera preponderante da smartphone e tablet, sembra essere finita, ovvero l'oggetto di per sé stesso probabilmente non ha molto più da dare. Ha portato tre innovazioni fondamentali. Una è lo schermo touch, quindi un'interfaccia finalmente nativa, finalmente naturale. Puntare col dito, il dito si chiama indice non a caso, perché lo usiamo sin dalla notte dei tempi per indicare, quindi toccare uno schermo col dito è la cosa più naturale possibile. Ha portato, grazie anche alle reti nuova generazione, le tariffe che sono cambiate, il collegamento internet in mobilità, che è un'altra tecnologia abilitante, e ha portato una piattaforma software con la logica delle app, no? E quindi con la logica della programmabilità di questa piattaforma, quindi dei telefoni che non sono più chiusi, ma dei telefoni organizer con l'agenda, con l'email, esistevano molto prima dell'avvento degli smartphone, però non avevano intercettato queste tre innovazioni insieme che le hanno reso la potenza di questi anni. Che cosa succede ora? Scopriamo che lo smartphone non è, o il tablet, non è più un'innovazione di per sé stessa, ovvero non ci aspettiamo più grossissime novità da questi oggetti, ma le grosse novità ce le aspettiamo dal loro ecosistema, cioè dagli altri oggetti con i quali questi sono capaci di collegarsi, oggetti di prossimità, e quindi che probabilmente abbiamo in tasca, abbiamo addosso, abbiamo alle orecchie, abbiamo davanti agli occhi come gli occhiali di Google, o al polso come il braccialetto che sto usando io, e questi oggetti comunicano con delle app evidentemente specifiche che possono essere fatte, dandomi un grandissimo valore aggiunto. Grande limite però di questi oggetti ancora è la batteria, molte volte. Il braccialetto che io sto portando adesso e sto provando ha il vantaggio di avere magari poche funzioni, ma una durata di una batteria che supera la settimana. in questo modo me ne posso anche un po' dimenticare. Certo, tre certo. ore del Google Glass, certo, abbiamo capito che sì. come è una prima generazione. Esatto, infatti poi ce lo dirà anche Max Ciocciola, si chiama Explorer Edition. Adesso ci sono le informazioni che arrivano da Strade e Autostrade, poi appunto con Max Ciocciola ci faremo raccontare qualche dettaglio in più e anche che applicazione, perché è un'applicazione molto divertente, hanno realizzato. 2024. Il nostro numero verde è 800240024, avete varie possibilità per comunicare con noi in diretta nella nostra trasmissione nel pomeriggio di Radio 24, anche via SMS 349-238-6666 e anche via Facebook, la nostra pagina di 2024, oppure anche via Twitter, cercate Enrico Pagliarini. Max Ciocciola, che ha creato Music Match, che è un'applicazione molto bella, utile per sincronizzare con la musica che magari abbiamo sul nostro smartphone i testi delle canzoni. Allora Max, che applicazione avete realizzato per i Google Glass? Bah, guarda, tutto è cominciato quando durante il Google I.O. La capa del designer di Google in un pitch a cui eravamo presenti ha dichiarato che secondo lei una delle, diciamo, killer app, per così dire, delle applicazioni secondo lei con maggior successo sui Glass sarebbero dovute essere proprio applicazioni di karaoke o che mostravano le lyrics. A questo punto, a quel punto, una decina di minuti dopo, siamo stati proprio prelevati in un'altra stanza e con la gente di Google ci è stato richiesto di sviluppare Music Match. In sostanza, attraverso il comando OK Glass, show me lyrics, io posso automaticamente riconoscere il brano che sta andando in questo momento per radio o in TV, con un sistema quindi di riconoscimento, mi viene segnalato che brano è e mi vengono mostrati sullo schermo dei Glass i testi sincronizzati. Un'esperienza molto ludica sicuramente, ma che già nel mondo del videogaming, attraverso tutta una serie di giochi, SingStar o altro, l'utente aveva apprezzato. Ora è chiaro che i Glass ce ne hanno 2000 e probabilmente non ne vedremo più di 1 milione nei prossimi 2 anni. Però comunque è un segnale di Google che ha chiesto di sviluppare un'app di successo già su iOS e Google Play e di portarla sugli occhiali. Sì, tu infatti hai detto non ne vedremo più di 1 milione perché prima o poi questi occhiali entreranno sul mercato, ma dovrebbero arrivare negli Stati Uniti verso la fine dell'anno e negli altri mercati il prossimo anno, dico bene Max? Allora, adesso e ad oggi le 2000 persone è diciamo il primo step per loro. Gli occhiali in questo momento, quando si riavviano, ovviamente inviano tutta una, diciamo un testing da parte di Google su questi 2000. Sembra che ce ne siano nuovi Explorer 6000 adesso. Io ho ragione di credere che, visto l'entusiasmo che ci sia, Google per Natale o gli inizi del nuovo anno li lanci sul mercato, nella solita versione sempre molto esclusiva, ad un prezzo alto, ma io ho ragione di credere che questo prodotto diventerà un prodotto di successo che probabilmente a partire dalla prossima estate vedremo comprare. Sì, poi magari anche altri produttori si metteranno a fare cose. Ci sono già un paio di alternative sul mercato, come una società che si chiama Recon, che aveva sviluppato già una maschera snowboard integrata, credo che la HP abbia fatto qualcosa di simile. Qui è chiaro che entriamo nel mondo Google, quindi entriamo nell'integrazione di tutto il mondo, della mail, delle mappe, di Google Now, che è questo nuovo prodotto con la voce, come sai. Quindi voglio dire, non basta farli, il vero tema è integrarli con tutta una serie di servizi. Certo, questo è effettivamente il difficile. Giusto per rispondere ad alcuni ascoltatori che ci fanno delle domande su, sì. Sul hanno un loro sistema operativo e poi come si collegano, con lo smartphone, solo con lo smartphone o anche con altro? Dunque, come sistema operativo montano Android Ice Cream Sandwich, quindi parliamo della versione 4.3.04, che è quella, per dire, che trovi praticamente sui telefoni che acquisti in questo momento Android, okay? Quindi una versione molto molto stabile di sistema operativo. Si collegano o direttamente alla Wi-Fi, per cui se sono in casa, in questo momento io sono connesso alla Wi-Fi, ho configurato la Wi-Fi su un apposito portalino, su un sito, e questo è un segno importante sulla privacy, bene spendere 2 parole su questo. Oppure si collegano in tethering, quindi in Bluetooth sul telefono, cioè io li uso come se fossero, diciamo, degli auricolari e prendo la connessione al telefono. Sul tema privacy e in particolare Wi-Fi sono molto molto protetti, ovvero collegando i vari account non vengo disturbato da tutti, cioè non è che chiunque può chiamarmi tramite Hangout e mi videochiama mentre sono per la strada. Io decido quali sono le persone che voglio che mi chiamino sui Glass, che questo è un concetto molto importante. Quindi non viene, i tuoi occhi non vengono buttati in rete immediatamente. Sì, sì, sì, sì, sei importante. Tu a decidere cosa vuoi che venga condiviso dai tuoi occhi e chi vuoi che ti contatti. Mi sembra importante perché si è parlato molto di privacy sugli occhiali. Sì. Senti, ultima domanda. Quando, visto che Music Match è un'applicazione che funziona con la musica, la musica l'ascolti con le cuffiette attaccato allo smartphone o i Glass, cioè gli occhiali di Google, hanno la capacità di riprodurre il suono? Allora, guarda, se ti dico l'audio come lo generano i Glass, entriamo veramente nella fantascienza. I Glass hanno ovviamente un audio perché ti comunicano tutta una serie di informazioni. In più i Glass ti leggono le notizie e ti rispondono, così come ti danno le indicazioni. Quindi non hai bisogno di cuffiette. Siccome ci ho perso un'ora nel cercare questo audio e non riuscivo a capire da dove veniva, ho scoperto che c'è un bottoncino con una vibrazione che è direttamente sopra l'orecchio, esattamente nella parte che si chiama tamburo dell'orecchio, vibra e stimola il tamburo dell'orecchio in maniera tale da farti ascoltare meglio. Quindi non è ovviamente un auricolare ad altissimo livello per cui ci ascolti musica, però ha un buon audio, un discreto audio, e lo usano attraverso questo sistema. Cioè non hanno voluto mettere un auricolare potente, fortissimo. C'è questa vibrazione che stimola l'orecchio, non la avverti neanche in realtà, e da lì ascolti. Quindi sì, la risposta è che usando Music Match in questo caso tu potrai ascoltare direttamente la musica da loro. È chiaro che non è concepito per quello. Bene, grazie a Max Ciociola per essere stato con noi. A presto Max, magari ci risentiamo dopo qualche settimana di prova, di test. Di quando Google volete, un saluto a tutti. Grazie, grazie. E nel frattempo, per chi non ha la possibilità, cioè per nessuno in Italia, oltre che quelli che lavorano a Music Match, beh, potete scaricare l'applicazione sia per Android che per iOS di Music Match, che poi scriveremo per bene anche sul nostro sito internet o sulla nostra pagina Facebook. Allora, Gianfranco, raccontaci un po' cosa fai con questo tuo braccialetto e con le altre cose che tu hai visto recentemente che ti sono piaciute, a proposito di cose da indossare. Sì, è uno dei tanti esempi di tecnologia indossabile che incomincia a prendere piede e che per molti saranno la nuova frontiera dell'innovazione, cioè finita un po' l'onda lunga, anzi neanche tanto lunga, devo dire, di smartphone e tablet, si dovrebbe passare a queste tecnologie collegate a smartphone e tablet, ma indossabili. Beh, in realtà non faccio assolutamente nulla se non, come dicevo, fare quello che faccio normalmente: cammino, dormo, mangio, faccio tutto quello che voglio. Lui in realtà non fa molto, perché è una macchina molto semplice questo braccialetto, quindi rileva il movimento e però grazie a un sistema esperto è in grado di interpretarlo, e devo dire in maniera molto corretta, dandomi quindi il numero di passi compiuti durante il giorno, quindi una certa, diciamo, l'attività o la mobilità, e posso anche impostarlo per fare delle funzioni un pochino più evolute, quindi per esempio usarlo come sveglia, che è molto interessante perché vibra, e vibra sul polso, vibra nel momento, in un range temporale che io imposto, vibra evitando, se possibile, i momenti di sonno profondo, e quindi svegliandomi nei momenti più opportuni. Ma soprattutto io credo che sia molto più utile per questo, per chi si deve svegliare magari molto presto mentre il resto della famiglia deve andare avanti a dormire, sveglia solo me, non sveglia mia moglie, non sveglia mia figlia, quindi da questo punto di vista è per esempio molto utile. Oppure può essere impostato per fare così un avviso antipigrizia, quindi ogni tot ore che sono immobile perché magari la mia scrivania preso dalle ultime notizie, ecco, sì, ogni due, anche questo è un tempo che si può impostare, mi segnala: guarda che 2 ore che sei fermo immobile, vatti a prendere un caffè, fai un giro. E quindi anche questo punto, da questo punto di vista può essere utile. Bello poi, usandolo per un tempo un pochino più lungo, è vedere i trend, quindi dei grafici fatti molto bene, in cui ti dice quanto hai avuto una vita attiva, quanto no, e quant'è la quantità e la qualità del tuo sonno, come sta evolvendo. È utile, devo dire che è utile per leggersi, leggere alcuni periodi magari anche più di stress e scoprire mentre io ritenevo di dormire almeno 7 ore, 7 ore e mezza per notte, scoprire che per un mese ho dormito una media di 6 ore. E quindi scoprirsi anche un po', conoscersi anche un po' meglio. Ecco. Sì. Saluto Nicola Manzoni, che è il general manager di Gima, che importa in Italia, distributore di iHealth. Buongiorno, benvenuto. Ciao Enrico. Io poco fa mi sono provato la pressione, era un po' alta la pressione, un po' troppo, forse, non so, forse dopo riproviamo, con uno dei prodotti che voi distribuite in Italia. E qua siamo entrati, già Gianfranco ci ha illustrato ad esempio questo braccialetto che serve di fatto per misurare quello che facciamo. iHealth è una società americana che sviluppa prodotti per misurare tante cose. Facciamo 2 o 3 esempi per farci capire. Sì, diciamo che iHealth è una società che ha sviluppato una linea di prodotti molto innovativi e ad altissimo livello tecnologico. La logica è tutta una serie di device che permettono al consumatore finale di fare autodiagnostica, di monitorare tutta una serie di parametri vitali tramite tablet o smartphone. Quindi abbiamo un'applicazione che scarichiamo gratuitamente da Apple Store o da Android su iPad, iPhone, qualunque sistema, e tutta una serie di device, misuratore di pressione, da braccio, da polso, bilancia con impedenziometro, massa grassa, massa magra, massa muscolare, 6 o 7 parametri. L'Activity Tracker, che è un braccialetto simile a quello di cui abbiamo appena parlato, che misura tutte le tracce dell'attività durante la giornata, sonno, cardiofrequenzimetro, pedometro, il saturimetro, che misura la saturazione di ossigeno nel sangue, e soprattutto il glucometro, per misurare la glicemia. Diciamo l'innovazione di iHealth è quello di avere raggruppato tutti questi strumenti e poterli gestire con un'unica app. Quindi non abbiamo un'app per la bilancia, una per i misuratori di pressione, abbiamo un'app dove il consumatore può crearsi la sua scheda paziente, e soprattutto tutti questi dati confluiscono nella scheda e possono essere condivisi con il proprio medico, sia via mail, ma proprio il consumatore può dare l'accesso alla propria app al medico e quindi andare a condividerli. In più, altra cosa importante, tutti i prodotti iHealth sono interfacciati anche con tantissime altre app disponibili sul mercato, quindi se al consumatore non piace per qualunque ragione l'app di iHealth, può usare gli stessi strumenti su altre applicazioni. Ok, è interessante perché sicuramente iHealth ha raggruppato, come diceva Manzoni, tutti questi prodotti in un unico marchio, con un'unica applicazione, eccetera, però lo chiedo a entrambi, il mercato di questi prodotti ne offre tanti? Sì. O pochi? Diciamo non ancora quanti potrebbero essercene, okay. Perché in realtà la cosa che va un po' così capita è che dividiamo in due la sensoristica dalla logica e dal display. Cioè ogni misuratore di pressione standard, quelli che si comprano dovunque, ha il suo display, i suoi tasti, eccetera eccetera. Ogni misuratore della glicemia ha il suo display, i suoi tasti, eccetera, eccetera. Perché replicare tutte queste logiche, che poi ormai sono programmabili, quando possiamo avere, anzi probabilmente ce l'abbiamo già in tasca, la logica che è quella dello smartphone, che è quella dello smartphone, il display dello smartphone, possiamo anche tenere tutti i tracciati della nostra storia e quindi in caso di problemi dice: ma come sta andando la sua glicemia? Il dottore, uno gli tira fuori il grafico, non deve più neanche stare a ricordarsi o portarsi gli appunti. Quindi allora dovremmo andare verso un mondo sempre più di sensoristica esterna, diffusa, distribuita, che sia la videocamera di sorveglianza, che sia il saturimetro o che sia semplicemente sfruttando la capacità di computing dello smartphone. Assolutamente, diciamo, sì. Riprendiamo tra poco vedremo, sentiremo se ci sono alcune domande interessanti dei nostri ascoltatori. Il nostro numero verde è 800 24 00 24. Tra poco. 2024. Le 16:36 minuti, questo è 2024. Io sono Enrico Paglierini, ringrazio Giorgio De Luca che si occupa della nostra redazione in queste settimane e ci aiuta anche oggi in studio. Dunque, stiamo parlando oggi di un trend che gli americani hanno definito quantitized self, cioè tutte quelle apparecchiature, quegli strumenti che collegate agli smartphone e ai tablet, prevalentemente mondo iOS, quindi mondo Apple e mondo Android, Google e tutti i produttori di terminali che utilizzano questo sistema operativo, permettono di misurare la nostra vita. Ne abbiamo fatti alcuni esempi. Però vorrei fare una domanda a Nicola Manzoni: ma che cosa fanno di più questi strumenti rispetto a, che ne so, il misuratore di pressione che io compro in farmacia, vi porto a casa, mi provo la pressione? Cioè, perché io dovrei utilizzare uno strumento e collegarlo allo smartphone? Diciamo, il vantaggio principale è quello di poter avere sullo smartphone, sempre a portata di mano, un archivio, uno storico di tutti i dati. Quindi, invece che dovermi misurare e segnare la pressione ogni giorno su un pezzettino di carta da portare al mio medico, io ho un archivio con salvato lo storico dei dati, i trend, i grafici, e posso sempre condividerli in tempo reale con il mio medico. Questo, secondo me, è proprio l'innovazione di questi prodotti. Ma ci sono dei medici che fanno questo? Che poi mi stupisco. Diciamo, noi stiamo partendo, siccome Gima nasce dal settore medicale ospedaliero, quello è il nostro mondo, sì, noi esatto, stiamo partendo detto, con ma è importante dirlo, esatto. una campagna di sensibilizzazione sui medici di base, proprio perché iniziano ad utilizzare sempre di più questi strumenti. Stiamo lavorando anche con le società scientifiche di medicina generale e siamo stati anche contattati da tantissime società che ci sono in Italia che fanno telemedicina, per esempio, quindi assistenza domiciliare, di ospitalizzazione dei pazienti, che ci hanno chiesto di poter utilizzare i nostri strumenti da configurare nei loro sistemi. Quindi è un trend che sta iniziando. Sicuramente per Gima il prodotto iHealth è una scommessa, però noi pensiamo veramente di aver anticipato quello che sarà lo scenario prossimo del nostro mercato. Le faccio altre due domande, poi magari anche se Gianfranco ha delle domande. La prima è: questi prodotti sono affidabili o quanto più o meno sono affidabili rispetto a, io prendo sempre come esempio quello che misura la pressione, anche perché è l'unico che capisco. Sì, assolutamente sì, nel senso, chi sta dietro iHealth è una delle più grosse multinazionali nella produzione di dispositivi medici. Quindi il prodotto iHealth non deriva da un'azienda produttrice di elettrodomestici, ma da uno dei più grossi leader, che è un'azienda che produce più di 6 milioni di misuratori di pressioni digitali all'anno, che poi sono quelli che troviamo in farmacia con i vari marchi dei brand che vengono conosciuti in Italia. Quindi c'è un know-how e un'esperienza medicale molto forte. Tutti i prodotti sono, vabbè, certificati ovviamente con le marcature CE, FDA negli Stati Uniti, ma soprattutto per esempio i misuratori di pressione hanno superato tutti i protocolli della European Hypertension Society. Quindi comunque, diciamo, si va verso un prodotto affidabili, di fascia alta tecnologicamente e professionalmente. Quindi la mia pressione, che prima diceva che era alta, è effettivamente alta. Probabilmente. Di solito sono la pressione perfetta. Ma quello dipende dal fatto che stava per iniziare la trasmissione e quindi c'era la tensione della diretta. Sì, probabilmente. Anche per uno navigato come te. Esatto, probabilmente è questo il motivo. Senta, non abbiamo parlato di prezzi, che è una cosa. Allora, partiamo da Gianfranco, quanto costa il tuo braccialetto? Il mio braccialetto costa intorno ai 100 euro. Che non è mica poco. Che non è poco. Però è molto divertente. Ecco, questo è un altro discorso. Dopodiché io credo... Cioè, ti piace, diciamo, vedere alla fine della giornata, magari dopo una settimana, tutto il tuo bioritmo, quanto hai dormito, quando hai avuto la pressione alta. Basta, c'è tutta un'area dell'app legata a questo prodotto che io non uso, perché questo vale per molti oggetti indossabili. Uno degli scopi sarebbe quello di condividere sui social: ho dormito poco, ho dormito tanto, eccetera eccetera. Invece io ci tengo a saperlo, sì, io, sì, e non condividerlo. Però ecco, magari una cosa che mi piacerebbe chiedere ai nostri ascoltatori, se vogliono dirla loro, è se loro nell'istante in cui hanno addosso questo o n altri sensori che comunicano al proprio smartphone e quindi possono comunicare al mondo il loro stato, che può essere la loro pressione, che può essere il loro stato d'umore, che può essere se quanto hanno dormito o quanto sono andati svegli, a che ora sono andati a letto, se sarebbero o meno disponibili a condividere sui social. Perché su questo ho seri dubbi, però evidentemente ogni volta devo pensare che io non sono il target, che là fuori possono esserci milioni di persone invece che non vedono l'ora di condividere questo tipo di informazioni. Però devo dire che al di là di questo oggetto, degli altri oggetti iHealthCap che abbiamo visto, il fatto che la logica, quindi l'hardware e se vogliamo anche una buona parte di software, sia già integrata nello smartphone che ho già comprato magari così a caro prezzo, mi farebbe pensare che attendere, magari non adesso, i prezzi di questi oggetti che delegano allo smartphone o al tablet buona parte del loro lavoro debba essere più basso degli oggetti che fanno la stessa funzione standalone, mettendoli di fatto fuori mercato. Questo accadrà ovviamente più avanti, perché di là stiamo parlando di prodotti oramai maturi che hanno già espresso tutto il loro potenziale e dove c'è una competizione di prezzo molto forte. Su questi prodotti nuovi sono prodotti, lo diceva però lo stesso, nuovi, novità, e quindi si paga un effetto novità e non c'è ancora tutta quella pressione sul prezzo. Però attendere, io mi aspetto che non solo saranno molto utili perché daranno delle funzioni in più, ma costeranno anche molto meno di quello che costano oggi. Sì. Manzoni, quanto costano questi prodotti? Ci faccia due o tre esempi. Ma diciamo uno dei punti di forza dei iHealth sarà anche il prezzo, quindi prodotti molto belli esteticamente, tecnologicamente avanzati a prezzi competitivi. Non faccio troppo il commerciale, allora, però. misuratore di pressione da polso 79 euro al consumatore finale IVA inclusa, quindi un prezzo sì. Il nostro. Si trovano? Dove si trovano? Allora, noi abbiamo iniziato da poco la distribuzione di questi prodotti. Attualmente sono in vendita online su dei siti specializzati tipo Salute Facile o Dr. Shop, sono siti abbastanza conosciuti. Iniziano ad essere presenti anche nei canali della grande distribuzione, diciamo, elettronica di consumo, negozi di prodotti Apple e nei negozi sanitari e farmacie di prodotti sanitari. Quindi 79 euro il misuratore da polso. Quello per la pressione? Quello per la pressione. Il nostro orologino, diciamo, bracciale costerà 59 euro. Un prodotto molto interessante è la telecamerina per le mamme. È una telecamerina che permette alla mamma di monitorare 24 ore su 24 il proprio bambino tramite lo smartphone. Questa costerà 190 euro il modello più evoluto e 140 quello più semplice. Gianfranco, se questo settore comincia a far parte dell'elettronica di consumo, su D-Day.it dovreste, perché voi vi occupate anche di queste cose. Sì, sì, già ce ne occupiamo. Dovreste però fare una sezione dedicata a, che non so, a Quantitize Self, che è il nome che viene dato. Sì, ma c'è qualcosa, cioè, di più. Io non faccio una differenza sostanziale tra il misuratore di pressione, che misura qualcosa di me stesso, o un altro, per esempio, prodotto che mi viene in mente adesso, molto bello, che si chiama Netatmo, che è un altro sensore, anzi due sensori, uno da mettere internamente al proprio appartamento e uno subito fuori, sul davanzale di una finestra, che fa da stazione meteo ed analisi dell'aria, sia della qualità dell'aria interna col suo inquinamento che della qualità dell'aria esterna col suo inquinamento, e consiglia se è meglio per le finestre, se miglioriamo la qualità dell'aria oppure no. Ecco, sono tutti sensori, sensoristica diffusa, che arriva, quindi è lo mettiamo in D-Day normale, insomma. Quello sì, ma è sì, Quantitize Yourself e Everything, mi verrebbe da dire. Cioè. Bene, tra poco sentiamo Sara che ci chiama da Trieste, adesso c'è la viabilità. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Le 16:46 minuti, questo è 2024. Saluto Sara che ci telefona da Trieste. Buon pomeriggio e benvenuta, Sara. L'ascoltiamo. Buonasera a voi, grazie della possibilità. Io sono un'infermiera, lavoro presso la diabetologia di Trieste. E siccome ho sentito parlare anche dell'applicazione dei glucometri su questo strumento, volevo dire che effettivamente già ci sono glucometri che si possono scaricare su computer e quindi tirare via, diciamo, il fastidio di dover fare un diario con le misurazioni giornaliere. Nell'ultimo anno sono venuti fuori 2-3 strumenti che si possono attaccare all'iPhone piuttosto che a smartphone con Android e che danno la registrazione di tutte le misurazioni che vengono fatte e poi noi operatori possiamo scaricarle, copiarle o per la fetta di pazienti più giovani c'è la possibilità eventualmente di poter mandare per email piuttosto che per SMS tutti i valori con sicuramente un beneficio in meno per di dover venire e poi una possibilità in più anche per chi lavora e sicuramente una fetta di pazienti giovani, ecco, questo sicuramente. Quindi voi li utilizzate già, cioè lei ha già avuto a che fare con questi strumenti? Sì, sì, ci sono due o tre marchi che insomma non è il caso, però no, ce ne può anche dire. Una in particolare è attaccato con l'iPhone e c'è l'applicazione iPhone che viene scaricata e dà anche la possibilità di sistemare i bolli di insulina per le quantità di carboidrati che vengono assunte. È un buon strumento sicuramente, è piccolino, quindi è molto, molto sì, semplice da utilizzare per chi ha già un'abilità con questi strumenti. Quindi lei dice giustamente, i più giovani che sono già abituati a utilizzare lo smartphone, utilizzare lo smartphone anche per fare queste cose viene più naturale, insomma è una prosecuzione naturale di questo sì, uso. Sì, penso sia una cosa sicuramente utile e nella medicina non credo tanto futura, è applicabile e anche auspicabile, questo sicuramente sì. Grazie Sara per essere stata con noi, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, grazie, buonasera. È interessante questo punto, anche perché Gianfranco, qui ci leghiamo anche al famoso tema, i più esperti di queste dinamiche lo chiamano gamification, cioè la capacità, l'abilità di chi crea poi anche queste applicazioni di crearle con logiche di gioco e quindi rendere più belle delle attività. Non so quanto bello sia guardarsi la glicemia tutti i giorni. Più che bello è indispensabile perché certo, si deve somministrare l'insulina evidentemente, però al di là di questo ci sono, chiaramente si innescano anche delle dinamiche che gli americani chiamano engagement, ma comunque che noi potremmo dire di coinvolgimento, ecco, per cui semplicemente tracciare alcune attività che in teoria sarebbero semplicemente a scopo sanitario o quantomeno healthcare, diciamo così, benessere, diventi anche un gioco, appunto, come dicevamo prima, per comunicarlo agli amici, per condividerlo, non magari il livello della glicemia, ma il peso, perché no? Ecco, per esempio il peso, perché no? Sto facendo la dieta, i miei amici sanno che sto facendo la dieta ed ecco che condivido i miei passi avanti mentre me ne guarderò bene da condividere le volte che sono, cresciuto. Sì. Poi naturalmente non lo facciamo in questa puntata, ma il tema della sicurezza in questo ambito diventa sempre più importante, perché se io potenzialmente posso condividere dati che raccolgo da qualche parte, che Manzoni, i dati che io posso raccogliere con i vostri strumenti li posso vedere oltre che sullo smartphone anche su un sito internet? No, solo sullo smartphone. Sono solo sullo smartphone. Beh, se uno mi hackera lo smartphone, insomma, diciamo, i dati sono salvati su dei server di IELTS super sicuri, super in conformità alle leggi sulla privacy, e il paziente, il cliente li può condividere col medico, ovviamente solo se desidera farlo, sia col medico che certo, con gli certo, amici. Certo. Con certo, prego. Un rischio che c'è oggettivamente quando passiamo a una softwareizzazione del device, no? Ecco, in questo caso è che il produttore possa un domani magari decidere di interrompere la produzione di quella linea e quindi magari decidere di interrompere l'aggiornamento delle proprie app. Questo che cosa ci suggerisce questo? Che anche e soprattutto scegliendo apparecchi connessi bisogna andare su marchi affidabili, certo, no, perché certo, è chiaro che se poi il produttore interrompe l'assistenza, quindi interrompe l'aggiornamento delle app che non sono più compatibili con i nuovi sistemi operativi, io il mio hardware non ho più il software e quindi non funziona, mentre un misuratore di pressione stand alone va avanti tutta la vita del suo funzionamento, funziona senza problemi. Però anche in questo caso, diciamo, come ci diceva Manzoni prima, visto che questi strumenti, almeno in quelli del caso di iHealth, possono essere utilizzati anche con altre app, questo, diciamo, viene un po' incontro. E comunque speriamo anche che nel futuro l'evoluzione di questi strumenti renda questi strumenti standard, sempre e quindi, più standard, e quindi diciamo pilotabili, controllabili con app. Ma nelle notizie, nelle digital news che hai dato poco fa, quando hai detto che Aistrax chiude, no? E quindi il servizio di streaming chiude, e beh, c'è un effetto collaterale che chi ha comperato, non noleggiato, attenzione, si possono comperare i film su Aistrax, dal prossimo giugno non potrà più vederli, quindi ha comperato qualcosa che pensava fosse suo, ma siccome l'azienda chiude non è più suo. Ecco, questo è un rischio della digitalizzazione di cui dovremo poi magari riparlare. Poi aggiungo un tassello, poi Manzoni la faccio parlare, aggiungo un tassello che è importante anche in questo caso, chi ha orecchie per intendere intenda, qui ci si attacca tutto il grande tema dei big data, perché se i produttori, nel rispetto della privacy eccetera eccetera, prendono questi dati quando ci saranno milioni di persone che magari si provano la pressione, si possono fare, o anche gli stati possono fare, delle analisi sulla popolazione per capire lo stato di salute della popolazione, ad esempio, ma di esempi se ne possono fare 8.000 o 10.000, però non abbiamo più il tempo. Manzoni, certo, sul fronte dell'affidabilità io volevo aggiungere un tassello che è fondamentale. iHealth è il partner ufficiale di Apple nello sviluppo dei dispositivi medici, quindi è stato scelto da Apple come il partner ufficiale, quindi è un'azienda estremamente affidabile, estremamente seria, e possiamo aggiungere anche che... In questo caso, diciamo, il discorso che faceva Gianfranco è un discorso generale. Esatto. Rispetto a quello 30 che dicevi secondi. Tu sui big data, riprendendo quell'esempio di Netatmo che dicevo io, già oggi Netatmo mette a disposizione di tutti gli altri utenti della community, in maniera anonima ovviamente, lo stato dell'atmosfera e delle condizioni atmosferiche di tutti gli altri possessori di Netatmo, quindi diventa un sistema cooperativo. Attendere, tutti avranno praticamente un network meteo potenzialmente infinito che ci dice molto più precisamente, magari, di quanto non facciano le semplici previsioni del tempo, cosa sta succedendo, qual è la qualità dell'aria vera nella nostra città o nelle zone della nostra città. Perché sono dati che vengono presi dalla realtà, da milioni di sensori. Posizioni. Io ringrazio Gianfranco Giardina, che è il direttore del magazine digitale dday.it. Grazie Gianfranco, buon lavoro e a presto. Grazie mille a te. Nicola Manzoni, che è il general manager di Gima, presto, buon lavoro. Grazie. E noi concludiamo così questa puntata di 2024. Come sempre, grazie per la vostra attenzione e per aver scaricato la versione podcast, il file MP3 di 2024. Io sono Enrico Paglierini, potete raggiungermi via email al nostro indirizzo 2024, quindi scritto in cifra 2024@radio24.it, attraverso Twitter @e_Paglierini, oppure anche tramite l'account di 2024 o attraverso la pagina Facebook del nostro programma. Se utilizzate, come immagino perché state ascoltando questa che è la versione podcast del nostro programma, utilizzate una delle tante piattaforme che permettono di fare il download, di gestire il podcast, come ad esempio iTunes o tutte le altre piattaforme che permettono appunto questa gestione su computer, smartphone, tablet eccetera eccetera, beh, potete lasciare un commento naturalmente nelle piattaforme che permettono di commentare 2024. Bene, noi ci sentiamo la prossima settimana, nel frattempo vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi. 2024.